English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di uno dei miei argomenti preferiti in assoluto, i Beatles. Io adoro i Beatles e la prima cosa che ho fatto nella mia vita, così nei rapporti con l'inglese, è stato imparare Yellow Submarine. Nel primo corso di inglese che ho fatto quando avevo 7-8 anni a Edimburgo. Lo so, non importa a nessuno, però è per dire che davvero io amo particolarmente i Beatles e la storia dei Beatles. Ci sono in Italia in questi giorni delle celebrazioni. In questi giorni Napoli e Bari in particolare hanno celebrato con i Beatlesiani d'Italia associati il 50° anniversario di Love Me Do. Fa un po' impressione pensare che siano passati 50 anni. Cosa succedeva all'epoca di Love Me Do? La formazione dei Beatles non era esattamente quella che poi è passata alla storia. Il batterista non era Ringo Starr. In molti sanno, forse tutti sanno, che era Pete Best. E noi abbiamo un'intervista esclusiva a Pete Best, l'ha fatta per noi Adriana Fracchia, che gli ha chiesto intanto come ci si sente ad essere stato uno dei Beatles originari. Oh, very proud. You know, no one knew 50 years ago that, you know, we would still be celebrating the birth of the Beatles. So it was, you know, it's still very... I'm a very proud person to be part of the band, you know, when in its infancy, and also, you know, when it recorded Love Me Do as well, which was the start of everything. So yes, a very proud day for me. We didn't know that we were going to become the icons of the music world, but we had our own ideas as regards how we would play our music. And of course, when we went to Germany after the Kasbah and to Hamburg, the long hours that we played in Hamburg turned us into this great rock and roll band, which exploded when we came back to Liverpool and then exploded, you know, on the rest of the world once they actually started releasing records. Eccolo qua Pete Best con il suo fantastico accento, un signore di Liverpool che ormai ha una settantina d'anni, che si ricorda i tempi della Kasbah, che era questo locale che peraltro, se non ricordo male, aveva a che fare proprio con la sua famiglia. Insomma, lui è molto orgoglioso, è normale, di aver fatto parte dei Beatles originari. Sì, lo dice due volte, lo dice all'inizio, I'm very proud, sono molto orgoglioso, e poi dice I'm a very proud person, sono una persona molto orgogliosa, orgogliosa di essere stato parte della birth of the Beatles, della nascita dei Beatles, e poi addirittura della sua infanzia, perché come diceva Marta, a un certo punto poi lui è stato sostituito, però... La nascita proprio dei Beatles, i primi concerti, i primi dischi, quindi l'infanzia dei Beatles, lui l'ha vissuta, ne è stato parte. It's the start of everything. Quello era stato l'inizio di tutto. Ovviamente non avevano idea alcuna di quello che sarebbe successo dopo, di questo successo galattico, altro che planetario. Sì, quindi dice proprio, of course we didn't know that we were gonna become the icons of the music world. Non sapevamo che saremmo diventati le icone del mondo della musica. E Quando è stato proprio il turning point, no? Lui non lo dice, ma possiamo definirlo così, cioè il punto di svolta, queste long hours that we played in Hamburg, in questo mitico concerto a Amburgo in Germania, quel concerto turned us into the great rock and roll band. Lì è stato proprio appunto il turning point, perché noi siamo diventati, e turn, vedete che è un verbo molto versatile, perché turning point è il punto di svolta, ma to turn vuol dire diventare, quindi siamo diventati questa grande band di rock and roll. E tutto è esploso, lo diciamo anche noi in italiano. Sì, è tutto esploso, naturalmente se ne sono poi accorti, quando, perché uno deve sempre deve specchiarsi in una reazione, quindi we exploded when we came back to Liverpool, e questo appunto da qui il suo accento che sentite, non è proprio l'accento di un londinese, ma appunto di un ragazzo di Liverpool. E poi dopo tutto questo è exploded anche in the rest of the world. Naturalmente a quei tempi non era così immediato, non c'era internet, non c'erano tante cose, forse non c'erano neanche così tante persone che sapessero l'inglese, quindi il successo ovviamente planetario è venuto un po' dopo. Soprattutto quando hanno cominciato a pubblicare i dischi, to release record, forse oggi si può dire anche publish, anche se paradossalmente ha meno senso, perché oggi la musica è più che essere pubblicata, viene naturalmente scaricata da internet. Comunque to release a record vuol dire pubblicare un disco. Sapete che release poi oggi noi lo usiamo anche per i programmi, quando c'è un programma, un aggiornamento di un programma, diciamo la new release, quindi appunto la nascita di una nuova versione, in questo caso della prima versione di un disco. Pete Best ha citato Liverpool, e quindi noi siamo curiosi di sapere com'era Liverpool a quei tempi. Liverpool is recognized as, you know, a center of music. In the 60s, there were many, many bands in Liverpool, young musicians, and it was only when the Beatles actually made the breakthrough and got the recording contract in London that the London Record Company suddenly recognized the music had its own musical scene. And then, of course, with the advent of the Beatles and the Merseybeat sound, which took over the world, Liverpool became recognized as a music scene. Since then, every band which comes out of Liverpool now has that heritage. You know, they know that Liverpool is a center for music. So the bands, if they turn around and say they're from Liverpool, wherever they travel in the world, wherever they record, they're welcomed. Eccola qua questa nostalgia di Pete Best per la Liverpool di un tempo che non era ancora il Center of Music come poi è stata riconosciuta nel mondo. Sì, diciamo che i Beatles hanno reso Liverpool famosa, ma hanno anche aiutato i musicisti che poi magari didn't become the Beatles, didn't make the breakthrough, dice il come invece è successo ai Beatles. Breakthrough letteralmente vuol dire bucare attraverso, ma quindi farcela, no? Hanno fatto il grande salto, possiamo dire in italiano. E negli anni 60s, che sappiamo è un modo di dire, è il modo inglese di dire gli anni 60, the 60s, the 70s, the 80s, the 90s, there were many, many bands, sempre in Liverpool, però non era un center of music per chi ci viveva, ma vista da fuori, da Londra poi, neanche poi dall'altra parte del mondo, ma da Londra non ci si rendeva conto che era una musical scene, che era proprio un posto dove la musica aveva un posto importante, scene, cioè la musica era sul palcoscenico. Ed è stato proprio l'avvento dei Beatles a far riconoscere la musica di Liverpool in Merseybeat in tutto il mondo. Sì, anche perché, come dicevamo prima, release the records, questo è naturalmente il turning point, il breakthrough, quando tu smetti di semplicemente suonare la tua musica in un pub, in un club per gli amici, ma una record company, una società discografica ti firma un contratto, ti fa firmare un contratto. A me sembra un signore molto carino Pete Best, anche perché poi utilizza delle espressioni, sembra insomma che l'essere di Liverpool abbia anche garantito una calda accoglienza proprio dal punto di vista umano a chi andava in giro per il mondo. Sì, perché dice che appunto essere di Liverpool ormai è come quando tu vai in giro e dici sono di Liverpool, hai il tuo heritage, no? Adesso si usa molto quando si parla di marchi della moda, per esempio, che hanno una grande storia, si dice hanno un heritage, cioè hanno una tradizione, una qualcosa che li rende di peso. Ecco, la stessa cosa succede se sempre secondo il signor Best, poi non so se è proprio così, però insomma, se sei un musicista di Liverpool, wherever you travel in the world, wherever you record, ecco, la gente ti riconosce e you are welcomed, sei trattato bene, sei il benvenuto. Ovunque tu vada nel mondo. Però, insomma, c'è una domanda che noi ci facciamo, una domanda alla quale è molto difficile trovare una risposta. La domanda gliela posta Adriana Fracchia: ma perché Pete Best è stato sostituito da Ringo Starr nei Beatles? It's because even 50 years after the dismissal, no one is clear about what the actual reasons were. So there's only really Paul who was there, you know, as the original member, because the others, unfortunately, are all dead now. So it's only really Paul who knows the real reason, you know, for the dismissal. So that's why I turn around and say, I don't know, so maybe the only person who does is Paul McCartney. Ringo wasn't an enemy at that time. Ringo and I were friends, you know, for many, many years before that, because he played in a band called Rory Storm and the Hurricanes, and of course he played at the Casbah, he played in Hamburg, he played in Liverpool. We were friends, we were drummers. It was only when he actually took over my role in the Beatles that he suddenly became the enemy. He was the one who didn't want to talk to me anymore. Eccolo qua, questo è proprio un pezzettino di storia della musica nelle parole di questo pacioso signore circa settantenne di Liverpool che si chiama Pete Best e che appunto è stato parte della storia dei Beatles in quanto primo batterista che ha suonato in Love Me Do, di cui si festeggiano i 50 anni, ma poi cos'è successo? Nessuno lo sa, forse nessuno lo vuole dire, non lo so, ma questo Pete Best ha risposto a Adriana Fracchia. Sì, dice proprio even 50 years after the dismissal, to dismiss vuol dire anche, non so, per esempio dismiss a pair of trousers, cioè mettere, buttare via, dare a qualcuno un paio di pantaloni, oppure anche dismiss a headquarter of a company vuol dire abbandonare, cambiare sede. E poi può anche voler dire lasciare a casa qualcuno, e quello è quello che è capitato a lui. But no one is clear, ma nessuno ha le idee chiare, nessuno sa, nessuno ha detto perché. E l'unico che lo sa è Paul McCartney, perché a questo punto gli altri due che all'epoca hanno visto e vissuto, cioè John Lennon e George Harrison, unfortunately, purtroppo sono they're dead. Quindi, I don't know, l'unica persona che lo sa, lo ripete, è Paul McCartney, però c'è anche questo problema. Qual era il suo rapporto con Ringo Starr, che ha preso il suo posto nella band e nella storia della musica? C'è stato proprio un prima e un dopo il dismissal. Prima, Ringo and I were friends, no? Eravamo amici, e io lo conoscevo bene, lui played in this band, con questa band, anche lui played in Carlsberg, Hamburg, Liverpool. E poi suddenly he became the enemy, tutto un tratto è diventato un nemico, nel senso that he was the one who didn't want to talk to me anymore. Beh, insomma, anche i grandi hanno la coda di paglia, possiamo dirlo? E proprio non sappiamo cosa è successo. Secondo me, sono state dette delle bugie, come questa impressione. Magari qualcuno ha dipinto il nostro amico Best nella luce sbagliata, e forse Ringo stesso, insomma, chi lo sa. Però io tifo per Best. Però appunto, sì, anche a me sta simpatico, mi stanno sempre simpatici un po' quelli che alla fine, ecco, alla fine non hanno trovato il posto nella storia. Cosa è successo appunto? Che Ringo è stato, cioè è stato Ringo a non parlare più a Pete. Sì, he was the one who didn't want to talk to me anymore. Cioè, come se lui diceva eravamo amici prima, forse io dopo un attimo così di smarrimento, perché poi ricordiamoci, a quell'epoca lui non sostituiva la band, il batterista della band che sarebbe diventata la band più importante della storia della musica rock, quasi, secondo molti, secondo la Marta sicuramente. Lui sostituiva, insomma, c'era un cambio in una normalissima band di Liverpool, quindi non era così grave forse, eppure da quel momento non si sono più parlati. E chissà se avremo mai l'occasione di chiederlo all'unica persona, the only person who knows, che è Paul McCartney. Insomma, solo Paul lo sa, sostiene Pete Best. Secondo me anche Pete Best sa qualcosa, ma non ce lo vuole dire, o perlomeno non ce l'ha voluto dire in questa occasione. Ringraziamo ancora Adriana Fracchia, che ha realizzato questa intervista a Pete Best, che in questi giorni era in Italia per i 50 anni, tantissimi, di Love Me Do. Si conclude qui questa puntata di English 24. Vi ricordiamo il nostro appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.